dove hai nascosto il tuo esercito di fiori. L'hai deposto nel cassetto e non lo trovi. Gira la tua stanza, gira il giradischi, suona ancora. Cura le tue nuvole, lettere che lette che rileggi ora. E il tramonto cammina tra il traffico, le strade, le persone, le parole della tua città. Come ti senti poetica stasera? E il tramonto colora tra il traffico, le strade, le persone, le parole della mia città. Come mi sento poetico, come ti senti? Hai lasciato i tuoi 20 anni ormai da un po' di tempo. Apri la finestra, il vento ti accarezza e gira nella stanza, gira il giradischi, suona ancora, soffia le tue nuvole, la lettera diventa un aeroplano e vola. E il tramonto cammina tra il traffico, le strade, le persone, le parole della tua città. Come ti senti poetica stasera? E il tramonto colora tra il traffico, le strade, le persone, le parole della mia città. Come mi sento poetico, come ti senti? E il tramonto cammina tra il traffico, le strade, le persone, le parole della tua città. Come ti senti poetica stasera? E il tramonto colora tra il traffico, le strade, le persone, le parole della mia città. Come mi sento poetico, come ti senti? Come ti senti? Come ti senti?